La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Racconti d'Africa. Fiabe, favole e leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. L'uomo crudele e sua moglie. C'era una volta un uomo e sua moglie che vivevano in una casa con un bel giardino, distante alcune miglia dal villaggio. Una sera venne giù un gran temporale. La pioggia si sentiva battere forte sul tetto della casa e il vento soffiava all'impazzata, tanto che pareva volesse portar via ogni cosa. Appena l'uomo e sua moglie accesero il camino e si sedettero per scaldarsi, si sentì battere piano piano alla porta. La moglie andò ad aprire la porta. Sull'uscio stava una donna vecchia, zoppa, debole, pareva quasi cieca, tutta bagnata dalla pioggia e tremava per il freddo. «Che ci fai qui, vecchia?» disse la donna alla vecchia. Per favore, buona donna, io sono vecchia, debole, infreddolita e affamata», disse la vecchia con una voce che faceva venire i brividi. «Ero in viaggio sulla via per il prossimo villaggio quando è arrivata la sera. Sto male e non posso arrivare al villaggio con questo temporale. Per favore, potete ospitarmi in casa vostra? Ho tanta fame, mi basterebbe solo un po' di caldo e un piccolo spazio dove poter posare la mia testa per la notte. Domani mi rimetterò in viaggio per il villaggio». Giunse all'uscio di casa pure il marito della padrona e disse: «Noi non possiamo aiutarla. Non diamo cibo ad estranei e non vogliamo altre persone in casa nostra». Chiusero la porta in faccia alla vecchia donna e l'uomo e sua moglie ritornarono al focolare. Ma per più di una volta la vecchia donna tentò di implorarli ad aprire la porta, ma loro non vollero aiutarla. Il temporale continuava sempre più forte e la vecchia donna andò nel granaio della casa a ripararsi dalla pioggia. Passò quindi nel granaio la notte fredda. Il giorno seguente l'uomo e sua moglie scoprirono la vecchia nel granaio e, per nulla contenti, le intimarono di andarsene. Ma la vecchia aveva la febbre ed era troppo debole per riprendere il cammino verso il villaggio. «La prego, mi dia delle medicine, buon uomo!» implorò. Ma l'uomo si rifiutò. Poi l'uomo e sua moglie trascinarono la vecchia fuori dal cancello di casa e la vecchia donna restò lì per tutto il giorno. Quando venne la sera, l'uomo disse alla moglie: «Perché dobbiamo lasciar morire la vecchia vicino alla nostra casa? Portiamola nella foresta e abbandoniamola là». E così i due trascinarono nella foresta la vecchia donna. Poi l'uomo disse: «Sono sicuro che se la lasciamo qui, viva, poi potrebbe fare un patto con gli spiriti maligni della foresta. Meglio ammazzarla. E subito!» I due presero un'ascia e tagliarono il corpo della vecchia in tanti tanti pezzi e ritornarono a casa e andarono a letto. Ma non appena si coricarono, sentirono provenire da fuori la voce della vecchia: «Voi mi ricorderete per molto tempo. e ricorderete di essere gentili con le persone sfortunate!» I due si guardarono, stupiti e spaventati, e spalancarono la bocca, sgranarono gli occhi. «Voi mi ricorderete per molto tempo e ricorderete di essere gentili con le persone sfortunate!» ripeté ancora la voce. L'uomo e sua moglie presero una lampada e un'ascia e uscirono fuori dalla casa, ma non videro nessuna vecchia. L'uomo e sua moglie ritornarono a letto, ma la voce della vecchia si fece ancora sentire con le stesse parole. Subito l'uomo e sua moglie decisero di ritornare nella foresta e vedere se il corpo della vecchia donna fosse ancora là. Il suo corpo giaceva ancora a pezzi dove l'avevano lasciato. Ma mentre l'uomo e sua moglie erano in piedi a guardare terrorizzati i pezzi del corpo della vecchia donna, accadde qualcosa di strano. Proprio quei pezzi della vecchia donna si ricomposero e la vecchia donna si mise in piedi. Era ritornata in vita. Ora però non era più zoppa. Ora stava in piedi, dritta. Non era più mezzo cieca ed era ben piantata e fissò negli occhi l'uomo e sua moglie. «Voi mi ricorderete per molto tempo», disse la vecchia donna, «e ricorderete di essere gentili con le persone sfortunate!» Detto questo, la donna scomparve. All'improvviso, l'uomo e la moglie caddero a terra e notarono, con costernazione, che non riuscivano più a restare in piedi, perché le loro gambe, le loro braccia erano storpie, non potevano più camminare. Dovettero tornare a casa strisciando sulle ginocchia e sui gomiti, proprio come fanno gli storpi, e compresero che la vecchia donna era diventata uno spirito. Passarono giorni, mesi e anni. L'uomo e sua moglie, divenuti storpi oramai, vissero una vita triste e da mendicanti. Non potevano procurarsi il cibo per mangiare e non potevano lavorare i campi. Trascorsero 5 anni e vissero di elemosina. E una notte qualcuno bussò alla loro porta. Era una donna vecchia che chiese ospitalità per la notte. L'uomo e sua moglie l'accolsero con tanto calore e benevolenza. Le diedero un po' del cibo che avevano, accesero il fuoco affinché si riscaldasse e le diedero un posto caldo per dormire. Il giorno dopo la vecchia donna disse che sarebbe andata via e l'uomo e sua moglie dissero: «Ma no, lei avrà bisogno di rimettersi in forze per affrontare il viaggio. Resti ancora qui con noi, per favore!» La vecchia donna sorrise e disse: «Oh, siete molto gentili, ma non posso restare. Ecco, sono contenta che siate cambiati e diventati gentili con le persone sfortunate. Sapete, io sono la stessa donna che voi avete portato nella foresta e fatta a pezzi!» Dopo queste parole, la donna scomparve. E quanto fu grande la loro gioia, di lui e di lei, quando videro le loro gambe e le loro braccia, che non erano più storpi. Saltarono pieni di gioia e ringraziarono lo spirito buono. Avete ascoltato Racconti d'Africa, fiabe, favole e leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, per paroledistorie.net.